definiti da sentenze, diciamo, giurisprudenza di, in varie forme. È un diritto che abilita numerosi altri diritti, è un diritto che abilita la libertà di espressione, è un diritto che abilita la libertà di scelta. A proposito proprio degli Stati Uniti, la sentenza chiave che ha garantito il diritto all'aborto proprio poggia sulla privacy come diritto fondamentale. Questo, insomma, per dare un po' un'idea di quante declinazioni abbia. Diritto, libertà di associazione, libertà a un giusto processo, diciamo, molti degli aspetti dello Stato di diritto poggiano su questo concetto. Per questo è molto riduttivo quando si mette in contrapposizione a un altro diritto, ed è una dicotomia falsa che spesso però viene utilizzata quando si parla di sicurezza, e ne parlerete, so che ne parlerete più avanti, quando si parla di salute. Non è un gioco a somma zero, come spesso si vuole far credere, a maggior ragione nei dibattiti di questi giorni. Appunto, parliamo dei dibattiti degli ultimi giorni in cui abbiamo parlato molto di queste app che sono venute fuori, che sono immuni, allerta l'OM e del contact tracing. In che modo, secondo te, l'avvento di queste app può giustificare o meno una violazione della nostra privacy? Allora, intanto un concetto da avere abbastanza chiaro, che purtroppo non viene abbastanza reiterato, è che proprio in virtù delle leggi che abbiamo in Italia e in Europa, per esempio quello che si chiama GDPR, il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, noi abbiamo una serie di diritti rispetto alla tutela della protezione dei dati, ma già in questa legge, in questo regolamento e nelle leggi che poi ogni paese ha fatto per implementarlo, è prevista un'eccezione riguardo proprio a casi come quelli della pandemia, perché i dati sanitari sono dati particolarmente sensibili, ma si tiene anche in considerazione appunto un'eventualità come questa. Quindi, quando si parla di violare privacy, di eliminare la privacy per un motivo di salute, cioè le leggi che sono in vigore prevedono già casi di questo tipo, e per questo è importante anche il dibattito che c'è stato, che c'è in queste settimane in Italia, così come in vari paesi, sui vari modelli e cosa possono portare, diciamo, e come possono essere efficaci. Perché non dimentichiamoci anche questo, tra le prime domande da farsi quando parliamo di queste app, c'è da chiedersi: quest'app risolve un problema che noi abbiamo? Perché innanzitutto il punto di partenza, cioè c'è spesso, questo diciamo si viene detto anche in ambito, diciamo, commerciale, no? C'è un'app che può fare questo, c'è un'app che può fare quello, ma un'app non può risolvere il problema del Covid. Un'app è un elemento che fa parte di una risposta di salute pubblica molto più ampia, che ha a che fare con i test, che ha a che fare con tutta una serie di misure. Quindi lo strumento deve essere innanzitutto efficace, deve funzionare, deve appunto tenere conto avere come priorità le persone, avere come priorità la minimizzazione dei dati e dare alle persone una garanzia di sicurezza personale, di sicurezza degli strumenti, perché quello che vediamo nei paesi dove queste misure stanno in qualche modo funzionando è che c'è una forte fiducia nei confronti del governo e un ricorso volontario all'app, che quindi fa sì che diciamo, l'utilizzo diventi, diciamo, efficace. Certo. Dobbiamo tenere presente anche, quando parliamo di misure, anche, diciamo, del contesto. Cioè, se per esempio parliamo di un'app che diciamo, nel contesto sentiamo dire deve essere adottata dal 60% della popolazione, per esempio teniamo presente, cioè chiediamoci anche qual è l'adozione degli smartphone in Italia, che è, diciamo, non è molto oltre il 60%, che vuol dire che tutti coloro che hanno uno smartphone devono utilizzarlo. Ci sono questioni tecniche, per esempio si parla di Bluetooth, e il Bluetooth però, per esempio, è una misura che utilizza moltissimo la batteria, vuol dire che se l'utilizziamo probabilmente non possiamo utilizzare quasi nient'altro nel telefono. Quindi ci sono questioni tecniche e questioni, diciamo, strutturali che vanno tenute presenti, senza contare che questo contesto è un contesto che si presta, come già in passato altre questioni analoghe, a un tentativo da parte di molti governi di acquisire sempre maggiori poteri e sempre maggiori dati sui cittadini. Ecco, questo è un tema molto importante. Proprio nel Regno Unito, dove vivo adesso, è stata fatta una legge all'inizio proprio dell'emergenza Covid che dava poteri straordinari alle forze di polizia per 2 anni. Ieri si parlava di una possibilità di estendere i poteri di intercettazione non solo alle agenzie di sicurezza nazionale, ma a tutta una serie di altre agenzie, tra cui diciamo il corrispettivo dell'INPS inglese e tutta una serie di altre agenzie. Ecco, su questo dobbiamo stare molto attenti. Pensare di annullare la privacy per fronteggiare l'emergenza è non efficace ed è intellettualmente disonesto. Io ti ringrazio un sacco, Antonella, lo so che devi andare, quindi ci affrettiamo a liberarti. Vuoi velocemente, prima di lasciarci, farci una panoramica su quale potrebbe essere il peggiore degli scenari possibili? Diciamo che purtroppo, appunto, molto spesso quando parliamo di questi temi sembra molto, appunto, apocalittico. Il peggiore degli scenari possibili, ci sono molte componenti di cose che stiamo vedendo. Per esempio, stiamo vedendo che in Israele la questione delle contact tracing app è gestita dall'Agenzia di Sicurezza Nazionale, che ha elevate capacità tecniche, ma insomma allo stesso tempo introduce un livello molto superiore di potenziale controllo per i cittadini. Singapore è stata, diciamo, indicata come un esempio positivo, ma in realtà, se andiamo a vedere, c'è un'adozione molto bassa dell'app di cui si sentiva parlare e adesso una crescita di casi per esempio di lavoratori che vivono in spazi molto ristretti e diciamo tutti insieme. Quindi forse lo scenario più apocalittico è il non avere un dibattito, il pensare che, appunto, sia un gioco a somma zero e ci si fidi di una non meglio precisata autorità a tempo indeterminato. Ecco, secondo me è molto importante la presenza della società civile nel dibattito, un collegamento con la scienza, perché sicuramente bisogna anche pensare alle misure che sono richieste per fronteggiare l'emergenza, e un pensare al futuro e a quelle che sono le cose che ci rendono cittadini, che ci rendono parte di una società e che ci rendono umani in ultima istanza. Ti ringrazio un sacco, Antonella, anche da parte di Fred, che è qua al telefono con noi. Sì, non so se si sente, però la ringrazio. Oddio, si sente. Grazie mille a voi. Grazie. E buon proseguimento. Ciao. Grazie a te per essere stata nostra ospite. Oggi puntatona, ragazzi. E, oltre a Antonella, nella seconda parte della nostra meravigliosa trasmissione scevra da problemi tecnici ci sarà Filippo Di Salvo, nostro grande amico e ricercatore, futuro forse ricercato. Dopo questa diretta, intendi? Esattamente. Mandiamo una canzone, Fred, dai, facciamo questa pazzia. I told you I didn't want to go to this dinner. You know I don't go for those ones that you bother about. So when they say something that makes me start to simmer, that fancy wine won't put this fire out. Oh, kick me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. Kick me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. I'd like to buy you a pair of pillows, old hiking boots to help you with your climb, or rather to help the bodies that you step over along your route so they won't hurt like mine. Kick me under the table all you want, I won't shut up, I won't shut up. Kick me under the table all you want, I won't shut up, I won't shut up. And if I don't wanna go, leave me alone, don't push me. Cookie, don't push me, don't you push me. If you get me to go and I open my mouth to the fucking mutton that they're talking about, you could pout, but don't you, don't you, don't you, don't you, don't you shush me. Kick me under the table all you want, I won't shut up, I won't shut up. Kick me under the table all you want, I won't shut up, I won't shut up. Kick me under the table all you want, I won't shut up, I won't shut up. Kick me under the table all you want, I won't shut up, I won't shut up. And if I don't wanna go, leave me alone, don't push me. Cookie, don't push me, don't you push me. If you get me to go on, I open my mouth to the fucking mutton that they're talking about. You can pout, but don't you, don't you, don't you, don't you, don't you shush me. Abbiamo appena sentito un pezzo dell'ultimo album del Fionone, di Fiona Apple, che l'album si chiama Fetch the Bolt Cutters ed è uscito lo scorso 17 aprile ed è il primo album di Fiona dopo 8 anni che non ne usciva uno. È un album a cui Pitchfork ha dato tra l'altro 10 su 10 e noi siamo molto contenti del fatto che sia un piccolo capolavoro e che lei sia rimasta la brutta matta che conosciamo sempre, e consiglio a tutti quanti di ascoltarlo perché è veramente figo. È con noi il nostro amico, rullo di tamburi Fred. No, rullo con la bocca. Prima di introdurre il nostro amico, vogliamo scusarci per i problemi tecnici. Esatto. Ciao ragazzi, ciao Filip. Tu sei, allora, oltre ad essere un nostro amico, sei un giornalista, un ricercatore, abbiamo detto anche un futuro forte ricercato, collabori con diverse testate e hai pubblicato l'anno scorso il tuo primo libro che si chiama Leaks, Whistleblowing and Hacking, nell'età senza segreti. È uscito qualche giorno fa un tuo articolo su Wired dal titolo Il contact tracing non c'entra niente con i giochini su Facebook. Parliamo di questo articolo e soprattutto a me ha interessato, a un certo punto tu parli di realismo della sorveglianza, che è un concetto che indica, cito, un'atmosfera pervasiva che annulla ogni possibilità di alternative alla sorveglianza, che si genera quando un clima culturale arriva addirittura a rendere impossibile immaginarle. Abbiamo appena parlato con la tua amica Antonella, che ci ha dato un quadro abbastanza inquietante di quello che potrebbe succedere con la nostra privacy. Tu ci vuoi parlare di quanto eravamo sorvegliati prima della pandemia e quanto rischiamo di esserlo adesso e dopo, realisticamente? Ma allora, innanzitutto bisogna precisare una cosa, che è quella che credo di aver inserito nel mio articolo che citavi, ovvero il fatto che la privacy sia costantemente violata, sfruttata economicamente da tutta quella che è la sorveglianza corporate da Facebook in giù. Ricordiamo che, ad esempio, i siti di news sono tra i più tracciati dal punto di vista del marketing, siti web del mondo, quindi anche al di fuori delle grandi piattaforme lo sfruttamento dei dati personali a fini commerciali è profondissimo, ma il fatto che la situazione sia così disfunzionale, così complessa, così problematica nell'ambito privato non significa, come invece ha detto qualcuno in Italia, che la privacy è morta e tutti questi progetti di contact tracing che prima descriveva anche Antonella, questo non significa che allora, siccome abbiamo già dato i dati altrove, questo contact tracing non è niente di cui preoccuparsi. In realtà, come spiegavo su Wired, ho trovato piuttosto pericolose queste narrative che si sono lette spesso in Italia, che andavano a giustificare interventi molto invasivi dal punto di vista della sfera privata delle persone, dicendo: beh, ma tanto i dati li avete già dati via, di cosa vi preoccupate, in sostanza. Sì. O anche chi se ne frega, figurati, esatto. A chi importa di vedere i tuoi dati? Appunto, cioè, come se io dovessi vergognarmi di usare Gmail, e insomma, chi se ne frega se il mio stato va a mappare i miei movimenti o i miei contatti o cose del genere. Ecco, io penso che quelle narrative siano veramente disoneste nei confronti dei cittadini, e che il mondo della raccolta dei dati commerciali sia problematico, che sia un colabrodo in molti casi è un dato di fatto. Questo non significa che si debba allora fidarsi ciecamente del governo quando prova a fare un esperimento di contact tracing durante una pandemia. Devo dire che, per quello che è emerso dalla confusissima comunicazione istituzionale del governo e delle varie task force coinvolte in questo progetto, l'app italiana è abbastanza, dà abbastanza garanzie dal punto di vista della privacy. Erano sul tavolo, si è discusso di soluzioni tecniche estremamente più invasive ed estremamente più complicate e anche più spaventose. Devo dire che il risultato, che non mi fa essere ovviamente favorevole al loro utilizzo, è, devo dire, una soluzione tecnica che, se verrà confermata in questo modo, dà delle garanzie di privacy piuttosto forti. Ciò detto, comunque, riprendendo anche quello che diceva Antonella, bisognerà continuare a vigilare dal punto di vista della società civile, dal punto di vista del giornalismo, dell'accademia e quant'altro, su cosa ci porteremo nel mondo post-coronavirus, così vogliamo dire, di questa emergenza. E io spero vivamente che quello che sta succedendo in queste settimane non dia il liberi tutti all'istituzionalizzazione della sorveglianza. Il realismo della sorveglianza che citavo nel mio pezzo di Wired è un concetto che ha coniato Lina Dencik, che è una delle più interessanti accademiche che all'Università di Cardiff fa ricerca sulla società dei dati e le implicazioni sociali, politiche, economiche della dataficazione, mettiamola così, della società. Lei conia realismo della sorveglianza, prendendo chiaramente spunto dal realismo capitalista di Fisher, per fare un discorso simile, dove se il concetto carne di Fisher è il capitalismo è diventato quasi impossibile da immaginare la fine, immaginare altri scenari, perché appunto c'è questa atmosfera pervasiva che lo giustifica costantemente, che lo fa quasi sembrare l'unica alternativa possibile. Sì. Qualcosa di simile avviene anche sulla sorveglianza, nel senso, c'è una sorta di stanchezza da parte dei cittadini che sembrano costantemente immersi dentro la sorveglianza, al punto che non riescono neanche più a immaginare che si possa vivere senza essere sorvegliati. E a me sembra che tutti quei discorsi un po' tanto giustificazionisti o che andavano a minimizzare l'impatto del contact tracing nascessero proprio da questo stato delle cose, dove ormai che il governo decida di tracciarci nei nostri dati sanitari è normale, non dovremmo più occuparci, e questo mi preoccupa non poco. Tra l'altro queste forme di controllo sono giustificate dal concetto di sicurezza, come molte forme di controllo anche meno tecnologiche, no? Ad esempio il dispiegamento della polizia e i poteri che si danno alle forze dell'ordine in periodi di crisi. vengono giustificati tutti da questo concetto di sicurezza e sarà difficile in un momento in cui passerà l'emergenza tornare indietro rispetto alla sicurezza, al livello di sicurezza che ci viene detto, no, che abbiamo intorno. Secondo te ci sarà un modo di avere una de-escalation di tutti questi sistemi di controllo che ci vengono costruiti intorno adesso, e che modo ci sarà? Ma allora, questo è l'altro punto cruciale, nel senso che qualsiasi scelta tecnica o di policy che gli stati faranno in queste settimane di emergenza deve inevitabilmente essere proposta e approvata con ben chiaro quale sia l'interruttore per spegnere tutto. Su questo le autorità europee si sono spese in modo piuttosto sentito sul sviluppare delle linee guida comuni a tutti gli stati membri della UE, ad esempio sui paletti legali delle attività di monitoraggio, sulle specifiche tecniche delle app e soprattutto su mettere in chiaro che una volta che l'emergenza è finita, questa roba qui non la utilizzeremo più, cioè non sarà più giustificabile andare in queste direzioni. La storia ci insegna, la storia recente, che dalle situazioni di emergenza difficilmente si esce. L'esempio che si può fare in questo frangente è chiaramente quello dell'11 settembre negli Stati Uniti, dove letteralmente il 12 settembre 2001 è iniziata l'avventura della esatto, sono state poste le basi per una pressoché profondissima, come dire, messa da parte dei diritti civili, mettiamo così, negli Stati Uniti, che è sulla base poi del Patriot Act, che era questa legge che autorizzava vari poteri del governo di invasione della privacy, di altre questioni. Su questa base si è costruita poi tutto quello che ad esempio è emerso col caso Snowden, tutta la sorveglianza di massa della National Security Agency e dei paesi alleati era sostanzialmente fondata sulle, diciamo così, le scioltissime, gli spazi apertissimi lasciati al governo dal Patriot Act. E Snowden, siamo nel 2013, siamo 12 anni dopo l'11 settembre, ma ancora l'applicazione di una legge di emergenza si faceva sentire come poi nelle scelte dei governi Bush, Obama e Trump poi. Quindi la cosa su cui bisognerà fare molta attenzione è di nuovo capire anche da un punto di vista legale, da un punto di vista legislativo, cosa ci portiamo fuori dall'emergenza partendo dall'emergenza. E sarà importante appunto non abbassare in un certo senso il controllo su tutte queste scelte di legge attuali, che poi potrebbero andare a influenzare le nostre vite anche una volta sconfitto il coronavirus. Sulla sicurezza in particolare si sono basate tutte le leggi di sorveglianza nel mondo, anche in Italia nel 2017, in gran silenzio, anzi cercando un po' di occultare la cosa, l'Italia ha esteso la data retention a 6 anni. La data retention è il tempo in cui i provider di servizi di telecomunicazione, quindi le telco sostanzialmente, devono per legge conservare sui loro server i dati e i metadati di comunicazioni telefoniche e telematiche, quindi via internet. Di norma non si va oltre i 24 mesi o i 18 mesi, o 12 nel migliore dei casi. L'Italia ha esteso questa cosa con un comma della legge europea del 2017 a 6 anni, che è al momento contrario a tutto quello che è stabilito dalle direttive europee, dalle decisioni della Corte europea per i diritti dell'uomo. Quindi anche lì, sull'onda degli attentati di Parigi e di Bruxelles nel 2015, si è estesa la data retention ai fini di indagine e di prevenzione del terrorismo. Quindi la narrativa anche in quel caso è stata quella, e al momento ci troviamo con una data retention potenzialmente illegale, ma che consente alle telco di conservare dati sensibili sulle telecomunicazioni per eventuali indagini fino a 6 anni, che è un tempo biblico, mi sento di dire, lunghissimo. Sì. Noi stiamo dedicando questa puntata anche alla resistenza, essendo domani il 25 aprile, e volevo parlare con te di questa donna resistente che tu hai avuto l'onore di intervistare di persona 2 anni fa al Wired Next Fest, che si chiama Chelsea Manning, e che il 12 marzo è uscita per la seconda volta di prigione, dopo che Obama le aveva accorciato la pena e l'aveva liberata per la prima volta nel 2017, ma lei poi è tornata in prigione ed è stata liberata da poco. Adesso è libera, ma paradossalmente è entrata in una libertà di nuovo condizionata da questa pandemia. Fa ridere questa cosa, ma un po' piangere. In che modo ci racconti perché il caso Manning è calzante con questo tema e perché Chelsea Manning è una resistente? Beh, Chelsea Manning è la storia cui ho dedicato, credo, più tempo e attenzione negli ultimi letteralmente 10 anni. Manning è la whistleblower più nota della sua generazione, insieme a Snowden, ed è diventata un personaggio pubblico, un personaggio storico, mi sento di dire, quando nel 2010 passò a WikiLeaks oltre 400.000 file segreti o comunque confidenziali del governo, dell'intelligence e dell'esercito degli Stati Uniti per denunciare, come dire, crimini di guerra o il reale costo sia umano che economico dei conflitti in Iraq e in Afghanistan. Quindi in questo senso, dal punto di vista informazionale, giornalistico, politico, di attivismo e quant'altro, Chelsea Manning è stato sicuramente una delle persone che più ha influenzato anche la nostra comprensione di quei conflitti, di quegli scenari geopolitici e di conseguenza della realtà in cui abitiamo. Poi Manning è un personaggio incredibile da mille punti di vista, chiaramente per quanto riguarda l'attivismo che abbiamo descritto, per il contributo che ha dato alla sfera pubblica rivelando questi file tramite WikiLeaks e poi i grandi media del mondo, ed è chiaramente anche un personaggio cruciale per tutto quanto riguardi il discorso sul genere, l'identità e simili, su cui lei è adesso anche estremamente attiva. La sua storia poi personale, la storia personale intrecciata con quella giudiziaria è tristissima. Manning viene arrestata la prima volta nel 2010, nel maggio, trascorre 7 anni in carcere tra attesa dell'inizio del processo e condanna. Viene condannata a 35 anni di carcere. Nel 2017 Obama le commuta la pena, il che non significa che l'abbia perdonata, ma che abbia semplicemente detto ok, sei stata abbastanza in carcere, puoi uscire. Durante questi 7 anni ha tentato il suicidio in due occasioni, poi è stata liberata, è stata una donna libera per 2 anni, in cui ha partecipato a eventi pubblici, compreso il Warnex Fest che citavi tu a Milano nel 2018, e è stata poi riarrestata nel 2019 di nuovo in connessione alla sua collaborazione con WikiLeaks, in quanto si rifiutò di partecipare a un nuovo interrogatorio voluto da un gran jury per andare ancora a scavare nell'affare Assange. Rifiutandosi di rispondere a queste domande, è stata arrestata, si è fatta di nuovo più di un anno di carcere e, come ricordavi tu di recente, e dopo un altro purtroppo tentato suicidio, è stata finalmente scarcerata senza aver mai poi risposto alle domande di questo gran jury, che sarebbe andato a, diciamo così, indagare nei rapporti tra una fonte giornalistica e una testata giornalistica. WikiLeaks è chiaramente una testata estremamente problematica, potremmo discutere per 5 ore se sia effettivamente giornalismo oppure no, ma di fatto di quello si parlava. Quindi per motivi puramente di attivismo, puramente politici, Manning si è rifiutata di rispondere a queste domande, si è fatta di nuovo un sacco di mesi di galera e ora è di nuovo in libertà. E in questo senso i whistleblower sono sicuramente delle figure resistenti, sono delle figure che riescono, quando sono sostenuti da una stampa coraggiosa, da un sistema sociale, politico, che guarda la trasparenza come un valore, riescono a portare contributi importanti per la comprensione e l'analisi di questioni che altrimenti rimarrebbero sotto segreto. E nel caso di Manning, nel caso anche di Snowden, che entrambi vengono in qualche modo da un milieu culturale hacker, un milieu di attivismo basato sulle tecnologie, c'è anche tutta la parte sulla crittografia, quindi sugli strumenti tecnologici che proteggono la privacy e l'anonimato online. Sono tutti temi intrecciati che ricordano ad esempio quanto il valore dei dati personali, i valori della privacy online siano un valore inestimabile per le nostre identità, per la nostra capacità di azione nel reale e di conseguenza anche per i nostri diritti civili. E mi fa piacere sapere che Chelsea Manning sia di nuovo libera di girare negli Stati Uniti, ha twittato una foto di sé a Brooklyn mentre partecipava a qualche attività di solidarietà nel contesto della pandemia. Credo sia spettrale per lei, dopo tutto quello che ha passato, trovarsi libera, ma in realtà non libera, e spero abbia adesso finalmente la possibilità di prendersi un po' di tempo per sé, di scomparire in modo positivo dal mondo per un po' e rimettersi in piedi, perché è veramente la persona più coraggiosa e una mente anche estremamente utile e brillante di cui credo il mondo abbia disperatamente bisogno di questi tempi. Non posso che concordare al 100% con te. E, io riguardando tra l'altro l'intervista che hai fatto a Manning durante il Awareness Fest, si parlava appunto di encryption, cioè di come possiamo difenderci, quali sono i nostri scudi da questa violazione continua e sempre più pervasiva della nostra privacy. Secondo te, parlando sempre di resistenza, quali sono gli strumenti che abbiamo noi per resistere? Ma sicuramente sono disponibili a tutti degli strumenti di comunicazione online che garantiscono la protezione dei diritti, la protezione della privacy e che, sorpresa, non sono difficili da usare. L'esempio più facile, più utile, quello che consiglio veramente a tutti di utilizzare, è Signal. Signal è un'app di messaggistica che ha la stessa user experience di WhatsApp, si utilizza allo stesso modo, ci sono le GIF, ci sono gli sticker, ci sono tutte le cose che vogliamo trovare nelle chat che usiamo con gli amici, banalmente. La differenza è che Signal è messa a disposizione gratuitamente da una no profit, che ha degli standard di sicurezza estremamente più elevati, e l'applicazione è totalmente end-to-end encrypted, il che significa, tradotto in un linguaggio più semplice, che i messaggi scambiati tra due utenti Signal sono leggibili esclusivamente dai due dispositivi nelle mani del mittente e del destinatario. L'azienda Signal sui suoi server non conserva sostanzialmente nulla sulle comunicazioni dei suoi utenti. Mentre ad esempio WhatsApp? Allora, WhatsApp è interessante perché WhatsApp da qualche anno si basa sullo stesso protocollo tecnologico di Signal. In questo WhatsApp è migliorata tantissimo. Chiaramente però WhatsApp è inserita dentro l'ecosistema di Facebook, che la rende inevitabilmente problematica. La cosa che consiglio utilizzando WhatsApp, che anche io utilizzo perché è chiaramente una piattaforma quasi irrinunciabile per comunicare in quest'epoca, è assicuratevi che sia voi che i vostri interlocutori non abbiano l'upload automatico delle chat nella cloud, quindi su iCloud nel caso di iOS con Apple, o su Google Drive con Android. Questo non avere l'upload nella cloud vi garantisce che i vostri messaggi siano solamente sul vostro telefono e sui telefoni delle persone con cui li avete scambiati. Madonna. È chiaro comunque che WhatsApp è inserita nell'ecosistema di Facebook, quindi inevitabilmente è in un ambiente ostile alla privacy. WhatsApp comunque è un'app sicura da questo punto di vista, bisogna utilizzarla con diversi accorgimenti. Il mio consiglio è chiaramente di spostarsi su Signal nel modo più esteso possibile, utilizzarla in modo più quotidiano che sia a disposizione di tutti, perché veramente siamo in un altro livello. Signal, ad esempio, è anche diventata un'applicazione fondamentale per i giornalisti d'inchiesta che devono comunicare con le loro fonti o con i whistleblower, come Chelsea Manning, con degli standard di sicurezza di anonimato molto più forti. Quindi se si vuole iniziare un discorso di accesso alla sicurezza informatica in questo senso, sicuramente Signal è l'esempio migliore, sia da un punto di vista della sicurezza stessa che delle possibilità di utilizzo, che davvero può può essere d'aiuto a chiunque, non solamente a chi è già conosce la materia o è particolarmente bravo dal punto di vista tecnico. Altrimenti sui social network non voglio neanche iniziare con te un discorso perché... Beh, ma no, ma sai, il discorso dei social network è chiaramente lo sappiamo, no? Cioè, sappiamo come funzionano, sappiamo che garanzie inesistenti diano sulla protezione dei dati, in questo Facebook è probabilmente il più disfunzionale. Però, ad esempio, il mio consiglio, se dovete utilizzare un buon servizio email, Gmail, da un punto di vista della sicurezza meramente tecnica del prodotto che utilizzate, non ha rivali. Quindi okay. se voi attivate la two steps verification su Gmail, ovvero la possibilità di accedere alla vostra inbox, sì con la vostra password, ma anche con l'utilizzo di un token diverso che vi può arrivare via SMS o tramite un'app di Google che vi installate sul telefono che ogni volta vi dà un codicino da inserire, in quel momento lì, quantomeno da un'eventuale fuga di dati, da un data breach fatto da un hacker che vuole rubare dati o informazioni, siete molto più garantiti di molti altri servizi. È chiaro che poi Gmail, di nuovo, è dentro l'ecosistema di Google, quindi diventa disfunzionale dal punto di vista in cui i dati sono sfruttati da un punto di vista commerciale, ma dal punto di vista della mera sicurezza tecnica del vostro account, Gmail vi dà tantissime garanzie, è un prodotto molto sicuro. È chiaro che c'è un discorso, se volete, più politico, più socio-economico sul ruolo delle grandi aziende tecnologiche, però in un certo senso, pur nella loro, se volete, distopia, i social network sono più trasparenti di molti altri servizi online commerciali che utilizziamo. L'esempio davvero che facevo all'inizio sul tracciamento commerciale delle abitudini di navigazione sui siti di news, beh, ci sono stati degli studi che hanno mostrato come, ad esempio, nel Regno Unito un singolo articolo online ha i tracciatori di 60-70 aziende commerciali che mappano le nostre attività online per la pubblicità targetizzata. E quello è, se volete, un sistema simile sì ai social network, ma estremamente meno trasparente. Quando noi siamo su Facebook sappiamo dove siamo, in un certo senso, mentre certo. Siamo su una testata giornalistica a leggere magari un articolo molto sensibile su un tema medico che magari è qualcosa su cui noi siamo preoccupati, beh, in quel momento lì decine di aziende commerciali stanno monitorando la nostra attività online e sono in grado di correlare dati su di noi diversi per offrirci la pubblicità. Il meccanismo, se volete, è lo stesso, ma è, secondo me, ancora più oscuro di quello che Facebook e Google fanno in modi chiaramente che non mi vedono troppo favorevole, però almeno, già chiaro, ma almeno dici so dove sono, sì, altrove sì. Questo non avviene. Questo è un motivo in più per non andare a visitare certi tipi di notizie. Beh, diciamo che più... Allora, mettiamola così, più i siti di news sono gratuiti e più insistono sulla pubblicità online, più si è tracciati. Questo è un dato di fatto. Un progetto che vi consiglio di guardare, se vi interessano in particolare questi temi, è The Markup, che è una nuova testata che è nata qualche mese fa per volere di Julia Engwin, una straordinaria giornalista che ha lavorato per anni a ProPublica, che si propone di fare inchieste sulla tecnologia, sullo sfruttamento dei dati, sul ruolo degli algoritmi, ed è una testata che ha sostanzialmente abolito il tracciamento online a scopi commerciali, coerentemente con la sua missione. Quindi vi consiglio magari di darci un'occhiata, perché sollevano dei temi mega interessanti e lo fanno in un modo che dal mio punto di vista è estremamente etico, anche da questo punto di vista. The Markup. Ok, allora in questa puntata in cui abbiamo visto degli scenari terribilmente cupi per il nostro futuro, sappiamo che ci sono dei giornalisti come te e ci sono degli amici whistleblower che aiutano e ci continueranno ad aiutare nell'operazione di trasparenza e resistenza a questi governi che sempre di più si trasformano in qualcosa di distopico per quanto riguarda le dinamiche di controllo nei confronti dei cittadini. Noi ti ringraziamo, Filip, ricordiamo che comunque c'è il tuo libro che si chiama, vuoi dirlo tu il titolo che è in inglese, per favore? Io? Sì, dai. Si chiama Leaks, Whistleblowing e Hacking nell'età senza segreti, pubblicato a maggio dell'anno scorso da Lewis University Press. Quindi quasi buon compleanno al tuo libro. È quasi il compleanno del mio libro, sì. Madonna, auguri libro, ti ringraziamo un sacco. Grazie, Filippo, Maria. Sei stato interessantissimo. Spero di vedervi presto a Macao in particolare. Ciao cari. Ciao, a presto, baci. Ciao. Forza Napoli innanzitutto. Primo, migliore squadra d'Italia. Se ci sarò, se ci sarai, saremo come gli occhi tuoi. La musica alzerà i toni e forte in alto. Giusto. Se non ci sei o non ci sarai, la nebbia fitta scenderà, la pioggia. Ciao.